Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Frey. È possibile mettere in un museo un fenomeno che nasce nelle strade? Lo si può fare senza snaturarne lo spirito e la rabbia da cui è nato? Può, soprattutto, farlo un'istituzione culturale che da quella strada è così distante? Il dibattito, esploso sulla mostra Street Art Basque & Co., inaugurato lo scorso 18 marzo a Bologna, ruota attorno a questo punto. La street art riemerge nel dibattito pubblico. Protagonisti ne sono quegli artisti che qualche anno fa erano considerati teppisti da denunciare. Blu prende posizione, decidendo insieme a tanti e tante di cancellare le proprie opere. Siamo di nuovo di fronte al conflitto tra movimenti e istituzioni che più volte si è acceso nel nostro paese. Le istituzioni, siano esse fondazioni culturali, accademia o musei, hanno sempre cercato di inglobare quanto si è sviluppato fuori dai meccanismi della cultura e del mercato, per codificarlo, inquadrarlo, renderlo socialmente accettabile e magari spendibile. È successo con il rock and roll e con il punk, si ripropone oggi con la street art, in maniera forse anche più dura, perché il graffitismo o il writing sono uno dei punti più sensibili della questione degrado a Bologna. Il tuo nome è maledetto e più lo spinge più ti piglia. Non scrivi sulla superficie che più gli assomiglia. Con colpi come 5 carrozze di 2P, coi ferrini che bestemmiano il tuo nome messo lì. Gli toccherà lavarlo e più ci provano a sgamarlo. Con foto appostamenti e retate col carro armato. È il dolore che ti guida, questo gioco per lo spazio. È il volto del silenzio che precede qualche scatto. Evolvo le mie lettere in posti da zero chiasso. Persi tra gli sketch, nel meglio dei vostri Picasso. Lodi e nero inferno, rubo qualche bombola, carezza ai vostri cani e stasera la mia crew ha fatto tombola. Ripassano i miei stili in una città sulle sue, vecchi maestri sul metallo, props a fase 2. Tutti stupiti per il tratto gigante, neri come il manganello nel culo di un vigilante. Non puoi capire cosa spinge questo tratto, non c'è una lama che taglia questo contatto. Non servirà fermarlo qualche tuo ricatto. Non è un fenomeno, è un dato di fatto. Tutti i ragazzi di strada, lock on, lock on. La linea, la lotta armata, lock on, lock on. Comarche e bandana alzata, lock on, lock on. E nero inferno sulle dita e non lo vedi più. Ok, Gattu, PSF crew, Venu, Utero, Feng, Fra 32, Left, 100, Dan, Vero, Note, DCA 2, Ben, Zue, GFK, Fast, Ritual, Bro, RVRZ, Zwick, Bossone, Twesh, Seman, Neo, Rock, Ringo, Dex, Go, Per comprendere la natura controculturale di questo fenomeno, si può partire dall'esplosione della graffiti art negli anni 70 a New York, una città sull'orlo della bancarotta, in cui la delinquenza e la marginalità sono diffusissime, una metropoli povera che sta subendo una grande trasformazione. Sui vagoni della metropolitana compaiono le prime tag, tratteggiate col marker e la bomboletta. Sono gli adolescenti del ghetto che imprimono il loro nome, dotandosi di un codice comprensibile solo a coloro che condividono questa pratica. È la nascita del wild style newyorkese che con la sua elaborazione stilistica basata sul lettering sarà la base per tutte le future sperimentazioni. Quello del writing è un mondo oscuro, etichettato dai più come vandalismo. I primi ad avvicinarsi sono i fotografi Harry Chalfant e Martha Cooper, che col loro libro Subway Arts contribuiranno a diffondere a loro insaputa quest'arte in tutto il mondo. Il valore di queste opere dipinte velocemente sui treni e destinate a deperire nel giro di poco tempo non veniva compreso dall'establishment dell'arte. Chalfant ricorda che un amministratore del MoMA gli disse: quella gente dovrebbe essere messa al muro all'alba e fucilata. We are unstoppable, we are uncatchable, we are nasty. Impossibili da fermare, intoccabili e cattivelli. C'è una foto che rappresenta bene questo atteggiamento. Si vede un ragazzo nero, Scam, immortalato mentre corre sopra un treno della metropolitana in movimento della stazione nel Bronx, fuggendo da una retata. Così Scam stesso ricorda quella foto in un'intervista rilasciata a Marta Gargiulo. Era una retata diurna e uno sbirro in uniforme mi ha inseguito sul tetto della metropolitana. Quando arrivato in cima continuavo a provare a saltare sul treno in cui mi trovavo, ma ero troppo veloce e agile e così, ogni volta che lui saltava, io semplicemente saltavo sulla carrozza che precedeva o che seguiva. Potevo vedere altri writer che correvano e che venivano inseguiti e sembrava di essere in un film di Charlie Chaplin. Il suo grosso cinturone d'ordinanza, i pantaloni stretti e le scarpe a suola rigida non gli permettevano di starmi dietro. A quel punto ha incominciato a minacciare su come mi avrebbe picchiato nella volante mentre mi portava in caserma se non mi fossi arreso. Così gli ho riso in faccia e ho giocato al gatto e al topo fino ad annoiarmi. Poi ho fatto un salto di 4 metri che lui certamente non era intenzionato a fare. Ai primi anni 80, la Metropolitan Transit Authority ingaggia una dura battaglia contro i writers che nel 1989 può dichiarare di aver vinto. Doppie recinzioni e binari, torri di illuminazione, cani da guardia rendono difficile l'accesso notturno alle yard e soprattutto i treni vengono dotati di una pellicola molto levigata su cui la vernice non riesce a far presa. Questa nuova situazione distrugge uno dei momenti chiave dei graffiti, il veder circolare i propri pezzi e commentarli con gli altri writers. Da questa sconfitta molti writers decidono di continuare, transitando però nel mondo dell'arte ufficiale. È l'epoca in cui nasce la street art che dialoga con il tradizionale mondo dell'arte. Nel 1979 era stato inaugurato nel Bronx lo spazio artistico Fashion Moda, galleria in cui venivano organizzati i primi graffiti show e in cui approdano due artisti provenienti dalla strada che poi avrebbero ottenuto la fama mondiale, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring. Si giunge così al momento della divisione. Da una parte una forma d'arte che, pur dirompente e innovativa, passa per dei canali ufficiali. Dall'altra un linguaggio che continua a essere fortemente legato al lettering e al wild style della strada. Ho covato la voglia per giorni e ore e ore, cielo è sereno, la luna è piena, il momento migliore. I miei sono a letto, dormono un sonno pesante. Scric, chiudo la porta e son fuori in un istante. Che calma, qualsiasi scricchio li ho rimbomba. Ci credo, è notte fonda. Ma un solo rumore rompe il silenzio, lo spacca. È il dingle dangle dangle delle bombole nella mia sacca. come da programma. Mezz'ora a piedi ma ne vale la pena. Il muro è là che aspetta tranquillo con aria serena. E muro, un nuovo vestito ti ho portato. Ma dire il vero non ti pensavo così illuminato. Mi giro, distante dalle epoche spanne. Una stangone, minigonna e uno pneumatico in fiamme. Che sfiga, di certo qui non posso restare. E quella tipa sembra un uomo, mi continua a guardare. Ehi, baby, fatti vedere più sincero. Mi scusi signorina, una missione da compiere adesso. E di certo, di animo non mi perdo. E di certo, di animo non mi perdo. Ma di certo, di animo non mi perdo. E di certo, di animo non mi perdo. Chilometro più avanti, un casermone di cemento, in questa zona ce n'è tanti. Mi giro di qua, mi giro di là, nessuno nei paraggi. Muro, lascia che il colore t'assaggi. Tiro fuori il bozzetto e lo osservo, soddisfatto. Qualcosa dietro me, mi giro di scatto. Un cane enorme, grosso, e mi addosso. Azzanna il mio bozzetto, scemo, molla l'osso. Vuoi spaventarmi? È meglio che vado, se no faccio tardi. Maesa non si butta giù, no, Maesa non si butta giù per così poco. Tornando in centro città, guarda là, ci creda stento il muro del municipio di liscio e grigio cemento. Alzo il volume del Walkman a 103, oh, nessuno disturberà ora mentre creo. Fucsia, verde, qualche riflesso d'oro, ti ho colorata d'opera d'arte muro. Ringraziami per il lavoro è gigantesco. Lo miro e lo rimiro, tap tap tap sulla mia spalla, mi giro. Un'uniforme ordinata, un'espressione un po' dura. Mi sa che passeremo assieme una simpatica notte in questura. E di certo, di animo non mi perdo. E di certo, di animo non mi perdo. Sono un po' meno certo, ma di animo non mi perdo. In Italia il graffitismo arriva nel 1984, grazie alla ricercatrice bolognese Francesca Linovi e alla sua mostra Arte di Frontiera. Dimo, che sarà uno dei pionieri del writing italiano, con il nome di Dayaki, parla così dell'irrompere di questo nuovo linguaggio. Ricordo molto bene la visita alla mostra Arte di Frontiera alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna. I manifesti della mostra con le foto dei treni scattate da Henry Chalfant, il catalogo che studiai per anni a venire. Quella mostra, unica e irripetibile, insieme all'utilizzo degli stencil che era prerogativa della scena hardcore, e ancora i pezzi che vidi ad Amsterdam, mi avvicinarono all'utilizzo degli spray e in seguito al writing. Dimo presenta, in parte con la sua stessa storia, uno dei caratteri fondamentali della nascente street art italiana, il profondo intreccio con la cultura hip hop. Centri propulsori di quest'arte sono state proprio le città in cui attecchì maggiormente questa musica: Milano, Roma e naturalmente Bologna. Proprio la scuola di writing bolognese svilupperà quei caratteri che porteranno a cavallo degli anni 2000 alla nascita della street art italiana. La contaminazione con il cyberpunk, il mondo dei rave, le riviste underground e soprattutto un forte legame con il mondo dei centri sociali. Esempio di questo stile è uno dei pezzi più famosi degli anni 80, anno 1989, case occupate di via Mascarella. Un b-boy pelle rossa monta un cavallo meccanico cyberpunk in pieno stile Mutoid. La firma, naturalmente, è quella di Dayaki. Non ha rispetto a chi è falso e vile, e non ha stile a chi non va mai fondare scelte. Che fa se ne fa, chi è custode del ghetto e qui sta. Ma metto passione e l'impegno, colpisco nel segno qualsiasi soggetto attivo e attento. Questo è il mio scopo, questo è il mio gioco, e questa è la linea di fuoco. Tenatamente convinto, non fingo, immobile mai mai, avanti mi spingo e vivo. Difetto aggressivo, sotto l'impulso di sistema negativo che spinge in fondo, spinge in basso, schiaccia. Questo è quanto che piaccia o non piaccia, ma tempo a disposizione adesso è scaduto. Muoviti, cambia adesso, muoviti, sei fottuto. Ecco come si fa la linea, linea si muove. Questione di stile fondamentale. Questione di stile fondamentale. Ecco come si fa la linea, linea si muove. Fondamentale. Ecco come si fa la linea, linea si muove. Per questo dico questo stile. L'incubatrice di questo incontro di stili e culture bolognese è l'Isola nel Cantiere, spazio sociale attivo nel pieno centro cittadino, in cui si incontrano il punk degli anni Ottanta, la pratica dell'underground, l'hip hop, le posse e il writing, costruendo una originale iniziativa politica. Dopo lo sgombero dell'Isola nel Cantiere, nel 1990, è stato grazie a centri sociali come il Livello 57, il Link, Crash e XM24 che si sono gettate le fondamenta della nascente street art italiana di Blue Erika il Cane, pur ammorbidendo l'aggressività stradaiora del bombing più tradizionale. Essa mantiene una forte connotazione sociale dell'atto artistico, un contenuto nettamente anticapitalista e un forte legame con il tessuto politico in cui veniva prodotta. Se da un lato le istituzioni locali si sono dimostrate accorte nel tentare di cavalcare l'impatto culturale di queste produzioni, dall'altro hanno fatto il possibile per distruggerne lo spirito e la rappresentazione. Le multe e le condanne penali per i writer lanciate dalle prime campagne antidegrado del sindaco Cofferati si sono accompagnate ad una lunga serie di sgomberi di spazi di cui oggi non vediamo che la coda. Lo dicono bene i punks di Atlantide, contestando la mostra fotografica sulla Pantera, inaugurata all'Università di Bologna nel 2014. Non ce ne frega niente di essere riconosciuti a posteriori per il valore culturale che un posto come Atlantide rappresentava in città. Quello che conta è che noi, bene o male, abbiamo ribadito il concetto. Schiavi nella città più libera del mondo siete voi, perché noi siamo libere e liberi da ogni bando, da ogni ipocrisia e da ogni museo mummificatore di esperienze. Questa puntata è dedicata a Matt, alla Jazz Art e a tutte e tutti i writer caduti e a quelli che ancora non si arrendono. Vedrai firme su ogni muro, un singolo frammento che compone un vivo intero. se non ci stai la tua sconfitta sarà duplice. Il concetto resta estraneo per te se non hai il codice. Sul muro lascia tracce di colore con un codice. Sul muro lascia tracce di colore con un codice. Sul muro lascia tracce di colore con un codice. Sul muro lascia tracce di colore con un codice. Il concetto che ti è estraneo rende